Venerdì 21 giugno, che fra l'altro è il primo giorno d'estate, Fridays for Future ha organizzato una visita ai prati di Caprara alle 16 e ha chiesto al Comitato di Rigenerazione e Non Speculazione di accompagnarli. Quindi l'iniziativa parte da loro e noi volentieri li accompagniamo dentro il bosco per vedere con coloro che non sono ancora entrati, appunto, no, lo stato della vegetazione, la dimensione del bosco urbano per cui stiamo lottando da oltre 2 anni. Sì. L'incontro ovviamente è aperto poi a tutte e tutti quelli che vorranno partecipare. Sì, certamente, adesso sia attraverso, diciamo, l'organizzazione dei ragazzi di Fridays for Future, sia attraverso il comitato che rilancerà appunto questa ulteriore possibilità per chi ancora non ha visitato il bosco, per chi vuole tornare appunto di percorrerlo, di vederlo in questa stagione che è abbastanza anche piacevole, insomma. Quindi sì, è un'iniziativa aperta a tutti fondamentalmente. Ed è anche però una prima occasione appunto di incontro comunque tra realtà diverse ma che si impegnano un po' sugli stessi temi, anche se da una parte rigenerazione e non speculazione nasce diciamo su un piano locale e Fridays for Future invece è un movimento diciamo che arriva a Bologna ma più ampio di così, però appunto un incontro diciamo che tra l'altro non è il primo perché nella chiamata No. Fridays for Future ricorda anche come rigenerazione e non speculazione abbia già partecipato a diversi Sì, eventi. ma diversi attivisti e il comitato anche ufficialmente ha partecipato a diversi venerdì e abbiamo anche già avuto altri incontri con rappresentanti, con insomma, esponenti di Fridays for Future Bologna che sono venuti anche alle nostre assemblee e hanno lanciato anche le loro iniziative. Ed è molto importante che questi ragazzi abbiano colto appunto la rilevanza di tenere legate le grandi questioni, diciamo, globali con il piano locale, quindi trovando nei prati di Caprara uno dei tanti possibili, no, luoghi dove poi concretamente si può lottare per una migliore qualità ambientale, per la lotta contro il cambiamento climatico. Quindi apprezziamo moltissimo questa collaborazione tra le tante che abbiamo costruito e siamo molto contenti appunto che questi ragazzi abbiano riconosciuto anche il lavoro che abbiamo svolto in questi anni. E a questo punto ti chiederei, ovviamente la lotta per i prati di Caprara è stata molto lunga, è ancora attiva, insomma sarebbe impossibile riassumerla tutta, però ti chiederei di fare un po' un punto della situazione in cui siamo adesso. Sì, allora diciamo che la situazione oggi è che dopo l'istruttoria pubblica c'è stata una presa di posizione da parte anche, diciamo, della maggioranza per rivedere i piani di edificazione dei prati di Caprara con una riduzione degli indici edificatori, mentre una parte dell'opposizione da sempre si batte, diciamo, per il bosco chiede che questo venga mantenuto totalmente bosco spontaneo. Quindi oggi, diciamo, fondamentalmente il tavolo di nuovo è quello tra Stato e Comune, tra Invimit, che è la proprietà attuale, questa società statale, e diciamo che ha visto un cambiamento ai vertici che sembra andare in direzioni un po' contrastanti. Da un lato il presidente che no, aveva in qualche modo addirittura rilanciato l'outlet, mentre il sindaco ha annunciato che in realtà stanno rinegoziando anche con Invimit una riduzione dei piani di edificazione. Quindi la lotta è ancora molto lunga perché appunto quello che chiediamo è che quella sia una zona di sperimentazione ecologica, diciamo, di un bosco urbano spontaneo che porrebbe Bologna di nuovo all'avanguardia anche, no, sul piano delle politiche sul clima e sull'ambiente. Così come diciamo, abbiamo un contatto anche molto, molto fruttuoso con Fridays for Future, anche l'altro gruppo, che è un altro gruppo globale, che è Extinction Rebellion, di fatto ha fatto il suo ultimo raduno proprio ai prati di Caprara, mentre noi facevamo la passeggiata e ci siamo incontrati, loro hanno fatto il loro workshop, hanno presentato, ci siamo, quindi diciamo le collaborazioni con le giovani leve, diciamo, della lotta sul fronte ambientale sono molto gratificanti, diciamo. Finalmente vediamo qualcosa che si muove, una cosa tra l'altro molto importante anche per noi, quella di non essere soli, ecco, no? E di riuscire a collegare tutte le lotte che sono coerenti fra di loro.